Plus. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di spazio all'indomani dell'International Space Up Challenge, il più grande hackathon dedicato allo spazio a livello mondiale, di cui si è tenuta una sessione il 23-24 aprile scorsi all'I3P, che è l'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino. Spazio a cui accedere costa sempre meno, grazie anche a tecnologie come i nanosatelliti, che infatti sono stati tra i protagonisti della competizione. Ne parliamo con Fabio Nichele, che ci ha accompagnato anche nella puntata precedente, responsabile del Mission Development di System Engineering Tyvak, società nata come startup negli Stati Uniti circa 10 anni fa e ormai sbarcata anche in Europa e specializzata proprio nelle tecnologie nanosatellitari. Buonasera Nichele. Buonasera a voi. Allora, mi sembra inevitabile partire dalla domanda: che cos'è un nanosatellite? Insomma, se ce lo descrivi un po' anche. Sì, nanosatelliti vengono definiti come satelliti di una classe che rientra in una massa al lancio tra 1 kg e 10 kg, quindi sono satelliti miniaturizzati, molto piccoli, e sono nati come uno standard CubeSat più di 10 anni fa negli Stati Uniti. Cos'è un CubeSat? Esatto. Un CubeSat è un tipo di satellite miniaturizzato, avente forma cubica, come dice il nome stesso, parola, di volume di circa 1 litro e massa che non supera un chilo e tre. Quindi è proprio un oggetto cubico ed è uno standard. Tra l'altro questo è un ragionamento interessante da fare, perché il mondo dello spazio siamo abituati a pensarlo come un mondo assolutamente di cose su misura, invece sta cambiando anche questo, no? Un po' grazie anche a questo standard CubeSat. Esatto, lo standard è stato sviluppato a partire dal 1999 da due università statunitensi, il Cal Poly Polytechnic State University e l'Università di Stanford, e appunto il termine CubeSat è stato coniato per, diciamo, denotare quei nanosatelliti che rispettano alcune specifiche descritte in questo progetto, studiate per raggiungere diversi obiettivi. Per esempio, la semplificazione della struttura del satellite rende possibile progettazione e costruzione ad un costo basso, e la standardizzazione dell'interfaccia tra il lanciatore e poi il satellite riduce il lavoro che è necessario per accoppiare questo satellite con il lanciatore. Quindi questa standardizzazione aiuta gli sviluppatori a trovare un'opportunità di lancio. Ecco, naturalmente lanciare qualcosa nello spazio costa ancora molto per unità di peso, quindi questi nanosatelliti, tanto per cominciare, costa poco lanciarli perché pesano poco, ma poi hanno un'altra caratteristica, se ho capito, che vengono usati per riempire i buchi dei lanci più importanti in qualche misura, no? Ed è un altro motivo per cui si riesce a usarli a un costo abbastanza contenuto. Esatto, vengono utilizzati come payload secondari, si definiscono. Diciamo che il loro vantaggio, sfruttando questa standardizzazione meccanica e di interfacce con il lanciatore, è possibile poi trovare rimpiazzi in breve tempo, quindi per il lanciatore è, diciamo, anche comodo riempire i buchi, come hai detto tu. Sì, per far tornare anche un po' meglio i conti. Ecco, esatto. Oggi quali sono gli utilizzi principali di questi nanosatelliti e anche quali sono i numeri? Ma allora, i nanosatelliti e i CubeSat sono nati specificatamente all'interno delle università per intanto fare formazione agli studenti e poi successivamente per fare esperimenti in orbita e anche di dimostrazione tecnologica, se vogliamo. E di questa classe, quindi nanosatelliti e CubeSat universitari, nei primi 10 anni ne sono stati lanciati un centinaio, circa dal 2003 al 2013, e è successo che le agenzie internazionali come la NASA e l'ESA si sono interessate a questi tipi di progetti, e pensate che dal 2013 ad oggi il numero totale di CubeSat lanciati ha superato i 400, siamo quasi a 500 unità lanciate. E quindi in pochi anni c'è stato un enorme aumento, no, di questi lanci. E quindi dicevamo utilizzi vari, dalla ricerca agli esperimenti, esatto, agli scopi didattici. Addirittura io ho sentito che di recente sono stati lanciati dei CubeSat a scopo amatoriale. Questo, insomma, è un segnale potente. Esatto, ci sono diverse organizzazioni in giro per il mondo radioamatoriali che organizzano, sviluppano CubeSat e poi li lanciano per effettuare dei veri e propri test di comunicazione. E questo ormai è quasi alla portata di tutti. Va bene, grazie Fabio Nichele. Grazie a voi, è stato un piacere.